Cornell, e sicuramente questa vittoria ci dà sicuramente stimoli maggiori per poterci migliorare. Sappiamo che la strada però è ancora lunga, ci abbiamo ancora molto da lavorare e dobbiamo soltanto dare, ecco, un po' più di continuità ai risultati, iniziare il torneo con una vittoria grande, vittoria prestigiosa, vittoria contro la Francia sicuramente è importantissimo, ma stiamo pensando già a sabato prossimo, sarà una battaglia ancora più dura in Scozia, e quindi niente, siamo coi piedi per terra e pensiamo al nostro lavoro, pensiamo a lavorare e migliorarci. Sì, però fatalmente una vittoria che, io capisco le parole di difesa e di copertura, però una vittoria, la strada è lunga, non so se possiamo dire, come ha fatto qualche commissario tecnico in passato, partiamo per vincere Sei Nazioni, perché questo sarebbe ancora forse fuori luogo, però una vittoria che può cambiare qualche cosa. Sì, io penso che sia sicuramente una vittoria che può dare un corso un po' diverso alla nostra storia, diciamo, recente e attuale, nel senso che io parlo più di prestazione che di risultati. Sicuramente le nostre prestazioni in un anno sono cambiate, sono più continue, anche nel corso dello scorso Sei Nazioni, quindi al primo Sei Nazioni di Brunel qualcosa di diverso si era visto, avevamo già accennato a fare qualcosa in più rispetto, almeno nella tipologia di gioco che si stava mettendo in campo, e diciamo che stiamo percorrendo questa strada. A novembre abbiamo fatto, penso, delle buone prestazioni nei tre test match fatti, abbiamo sfiorato l'impresa con l'Australia e oggi abbiamo ripreso il cammino con una grande vittoria e soprattutto comportato da un gioco, diciamo, che riesce qualche volta a essere ad essere diverso. Quindi ecco, noi dobbiamo pensare a quello, soprattutto a giocare in un certo modo, ad approcciare la partita in alcuni momenti in maniera positiva, pensando esclusivamente al fatto che possiamo battere quando vogliamo anche le più grandi, e poi sicuramente i risultati verranno, perché quando giochi con l'intensità con la quale abbiamo giocato ieri anche a livello difensivo, diciamo, prima o poi le vittorie arrivano, se non c'è. Sì. Un'ultima cosa, ed è una mia convinzione profonda che nessuno mi toglierà mai dalla testa: Costa, Berbizier, Brunel, con tecnici francesi riusciamo sempre a progredire, a far vedere qualcosa di diverso e di importante. Nell'alternanza con allenatori che arrivano dall'altro emisfero e che alla fine non ci portano a questi risultati, la mia convinzione mi sembra avvalorata dal percorso della nazionale negli ultimi anni. Ma io credo che ogni tecnico che è venuto in Italia ha lasciato un segno, qualcosa di positivo l'ha lasciato. Quello che forse hanno in più, quello che hanno i francesi, che sono comuni caratterialmente a noi, appunto. Molte cose sono comuni, per cui probabilmente l'adattamento loro è più veloce rispetto alla nostra mentalità, al nostro modo di vivere in generale, e quindi anche di comportamenti all'interno sul campo e all'interno di un gruppo di lavoro come può essere la nazionale di rugby. Ma parliamo anche di una comune lingua tecnica. Anche un aspetto tecnico sicuramente è importante. Noi siamo sempre stati attratti come italiani dal gioco francese, quindi è normale che ci riesce meglio anche vederli e interpretare quello che è il loro modo di giocare. Sicuramente ci riesce meglio. Abbiamo sentito Troiani, continuiamo con il rugby e continuiamo con altri argomenti. Domani saremo qui per voi in diretta dalle 14 alle 15, potrete dirci tutto quello che volete, ma oggi riascolteremo più tardi anche voi, anche i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato. Però restiamo per il momento sul rugby. Abbiamo sentito anche Giovan Battista Venditti dopo la vittoria con l'Irlanda, che ha chiuso il nostro Sei Nazioni dopo due delusioni, dopo una buona prova contro l'Inghilterra, alla fine con l'Irlanda che voleva vincere in Italia, che voleva vincere all'Olimpico, insomma è andata come sapete. E allora Venditti, allora partiamo da qui, due vittorie storiche, la prima con la Francia, l'ultima con l'Irlanda, una mezza vittoria, quindi due vittorie e mezza, perché quelli in Inghilterra comunque è stata una grande partita. Due partite un po' meno belle, Galles e Scozia, però in questo Sei Nazioni, in questo Sei Nazioni abbiamo fatto cose che non avevamo mai visto. Sì, sicuramente siamo soddisfatti di quello che è stato il nostro Sei Nazioni. Eravamo partiti molto forti, quindi questo forse aveva creato tante aspettative per le successive partite. Anche in voi? Perché io questa impressione ce l'ho avuta. Noi no, perché comunque sappiamo che ogni partita del Sei Nazioni è veramente difficile. Nel caso di Edimburgo lo sapevamo che lì in Scozia sarebbe stato molto molto difficile, perché comunque loro aspettavano quella partita, l'anno prima avevano preso il cucchiaio di legno perdendo proprio contro di noi a Roma, quindi eravamo coscienti della situazione, però purtroppo le cose non sono girate per il meglio, ma noi comunque abbiamo settimana dopo settimana sempre cercato di lavorare al meglio e di non pensare troppo ai risultati. E, diciamo, ci abbiamo provato anche col Galles, ma non è andata benissimo, ma comunque anche lì non ci siamo arresi, abbiamo sempre lavorato e i frutti si sono visti sia nella partita con l'Inghilterra, che comunque ci ha visto uscire a testa alta nonostante la sconfitta, e ancora di più dopo il bel risultato contro l'Irlanda. Che mai avevamo battuto nelle Sei Nazioni, no, Giacomo Bagnasco? Certo. Aspettavamo da 16 anni di batterli, e poi dal 2000, da quando l'Italia è entrata nelle Sei Nazioni, abbiamo incontrato naturalmente tutti gli anni, quindi per 13 volte consecutive gli irlandesi, e ci hanno sempre battuti. Vuoi chiedere qualcosa, Venditti? Ma intanto a me fa piacere che Venditti sia in questa nazionale con Andrea Masi, due tre quarti solidi, forti fisicamente e anche mentalmente, che vengono dall'Abruzzo, che è sempre una riserva importante per il rugby nazionale. Quello che mi ha colpito, te lo dicevo ieri, Carlo, Io continuavo a pensare che Venditti in questo Sei Nazioni avesse segnato due mete, e poi invece mi sono dovuto arrendere all'idea che ne ha segnato una sola. In realtà, per me evidentemente, inconsciamente, equivaleva anche a una meta quel placcaggio fatto all'ala francese all'ultimo istante, che ha interrotto l'ultima offensiva della Francia. Abbiamo sentito anche adesso uno scorcio di telecronaca. Parata che vale un gol. Ma sicuramente, quindi Venditti ha fatto una media, ha fatto una meta all'Inghilterra, però ha fatto anche quel placcaggio. Sì. E chiedo a lui se c'è la conferma. Io ho letto una dichiarazione di questo tipo: in quel momento avrei portato fuori campo anche l'OMU. Non che tu sia Mingherlino, intendiamoci, tutt'altro. Però è bella questa frase, dice della vostra determinazione. Sì, sicuramente gli ultimi 10 minuti contro la Francia sono stati veramente difficili, perché loro ovviamente non ci stavano a perdere, e noi abbiamo stretto i denti, eravamo tutti stanchi, ma diciamo era una partita che volevamo assolutamente portare a casa a tutti i costi, quindi diciamo a me è capitata l'ultima occasione di buttarli fuori, e non potevo fallire proprio io dopo che per 80 minuti tutti avevano sofferto, e soprattutto negli ultimi istanti della partita tutti avevano fatto più del loro lavoro, diciamo, per cercare di contenere i francesi. Quindi ti è toccato fare Buffon, dai. Esatto, dai, dovevamo farlo. Sì, oltretutto la migliore difesa italiana nella storia del Sei Nazioni. Sì, no, ma ci sono molti numeri a documentare la mia impressione, o la nostra impressione, che sia stato il miglior Sei Nazioni da quando siamo lì. Ma quanti margini abbiamo di crescita? Perché comunque, Gio, nessuno mi leva dalla testa che arriva il tecnico francese e noi ricominciamo un percorso. Beh, sicuramente il lavoro del nostro allenatore Jacques Brunel credo si sia visto. Lui è una persona molto pragmatica e comunque un allenatore che dà tanta serenità, è fiducioso, ha fiducia ai suoi giocatori, e quindi tutte queste sue qualità, diciamo, le passa anche a noi. Dunque riusciamo a essere più determinati, a essere più tranquilli, a provare a giocare con la testa un po' più libera, e tutte queste cose si sono viste. C'è tanto lavoro dietro sicuramente, sia suo che nostro. Comunque sì, si è aperto un ciclo con tanti nuovi giocatori, con questo nuovo allenatore che sicuramente ci ha già dato tantissimo, nonostante sia solo un anno che è seduto sopra quella panchina, e comunque andiamo avanti, non ci siamo assolutamente fermati. Abbiamo già adesso a giugno una tournée molto molto dispendiosa e importante. E l'altro giorno, per chiudere il circolo, Jacques Brunel, tecnico della nostra nazionale, che ripeto, con gli allenatori francesi noi riusciamo sempre a crescere, e dopo Berbizier è arrivato Brunel, sono arrivati questi successi, ed è arrivata soprattutto la sensazione di una nazionale italiana che sta esplorando nuovi modi di giocare, che sta crescendo, che sta cercando nuove soluzioni anche e soprattutto tra i giovani. Ecco il CT. Provato, sì. È riuscito anche! Deve tenere palla! Fermato anche lui! La può dare fuori! Fuori! È finita! È finita! Vince l'Italia! 23-18! Il piede di Orchera! Sì. Il pari! Il 22-15! La prima vittoria messa in azioni contro l'Irlanda! Allora, se vuole divertirsi deve guardare meglio giocare a rugby, mi scrive Roby da Lodi. Io saluto e ringrazio, ed è un grande piacere, il CT della nazionale italiana Jacques Brunella. Buongiorno. Buongiorno. E il nostro, la nostra voce del rugby, Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno a voi. Monsieur Brunel, molti dicono che questo è stato il miglior sei nazioni della nazionale italiana e io, guardi un po', sono d'accordo. Il migliore risultati non è il migliore, perché se ci ha fatto due vittorie, se ci ha fatto in 2007, ma è possibile. Tutti dicono che la maniera che abbiamo giocato, che sia la Francia o l'Irlanda durante le due vittorie o contro l'Inghilterra sulla penultima partita, abbiamo mostrato una immagine un po' diversa. Quello che possiamo dire è che questo torneo è stato diverso. Giacomo Bagnasco, tu sai come la penso, io ci vado giù piatto. Con gli allenatori francesi noi cresciamo sempre, con quelli dell'altra parte del mondo no. Forse abbiamo perso del tempo e forse adesso abbiamo trovato il commissario tecnico ideale per un'ulteriore crescita. E noi ce lo auguriamo, e il dato di fatto è che con gli allenatori francesi l'Italia cresce. Quanto alla questa crescita, è cronaca, questa esatto, è cronaca. Su questo nessuno può contestare. Quanto alla crescita di quest'anno, parlando anche oggi con Jacques Brunel, sottolineava che l'Italia tra le sei squadre del sei nazioni è quella che ha avuto il maggior possesso di palla. È una cosa che fino a pochi anni fa era incredibile, ma ancora più incredibile è il fatto che l'Italia è la nazionale che nel corso delle cinque partite del sei nazioni ha fatto più offload, vale a dire più ricicli veloci della palla. È un gesto molto importante, è un gesto tecnico difficile da fare, noi lo vedevamo fare agli altri e rimanevamo a bocca aperta. Adesso abbiamo superato gli altri e io chiedo a Jacques Brunel come è stato possibile, anche in poco tempo. È stato possibile perché penso che ho avuto la fiducia del giocatore su un progetto di gioco, su una missione, su una volta di crescere, su una voglia di crescere, su un obiettivo che abbiamo, l'obiettivo in rapporto al torneo, l'obiettivo in rapporto alle tutte le grandi nazioni del mondo e l'obiettivo in rapporto alla Coppa del Mondo, che per andare alla Coppa del Mondo e essere pronti per andare in quarto di finale, dobbiamo durante questi due anni che rimangono adesso dobbiamo crescere ancora molto molto, ma mostrare una immagine, mostrare una missione diversa che la squadra aveva prima. Senta CT, io le chiedo ancora una cosa e anche qui ci vado giù piatto. Pierre Berbizier, a mio parere, aveva lasciato la nazionale italiana perché non vedeva margini di miglioramento. Lei quali margini di miglioramento vede invece nel movimento italiano? Oh, tanti, tanti, tanti. Possiamo ancora molto, molto crescere perché abbiamo mostrato da un anno che sia tra i Black, contro gli All Black, contro Australia, contro Francia o Inghilterra, tutti, che possiamo giocare al loro livello, ma non durante tutta una partita.

sui fori imperiali per Biel Kadri, Roma massima ad una francese. Biel Kadri ha fatto davvero una grandissima impresa. Lo sprint che vale però soltanto per un piazzamento, abbiamo visto Filippo Pozzato, vediamo un po' adesso lo sprint per il secondo posto con l'arrivo di Filippo Pozzato che alza le braccia. Non si è accorto che davanti, non si è accorto c'era, che davanti c'era Biel Kadri. È una brutta immagine, bruttissima, però vabbè, sono cose che succedono purtroppo, quando si è lì in quegli attimi che si è tutta... Non è che c'è tanto tempo di ragionare o parlare con la gente, e specialmente su un arrivo così, delle immagini veramente uniche, mi sarebbe piaciuto alzare le mani veramente per il primo posto e non per una finta vittoria, per un secondo posto. Dei nostri personalissimi idoli, non solo perché è un grande talento del ciclismo, perché gli piace la bella vita, ma anche per l'autoironia. Pippo Pozzato, ciao! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Grazie per aver risposto alla convocazione! Sempre, tutti convocati, ci siamo sempre! Ci siamo sempre! Domenica, idolo ancora di più, dopo l'abbaglio alla Roma massima, hai fatto un numero alla Pozzecco! Hai fatto un numero alla Pozzecco, altro che alla Pozzato! Pippo, mi senti? Dov'è Pippo Pozzato? Ha già messo giù. Io intanto saluto Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e vi convoco 800240024. Pippo, ci sei? Eccomi qua, ero andato via, neanche la linea voleva farmi sentire. Hai fatto un numero alla Pozzecco più che alla Pozzato. In effetti, hai fatto una bella figura da cioccolatino, come si suol dire dalle mie parti, però ormai è andata, la prendiamo con filosofia. No, ma vuol dire che sei in forma, domani è la Tirreno Adriatico, da domani è la Tirreno Adriatico dove ci sono tutti, vuol dire che vai lì a spaccare, o no? Ma no, diciamo che la Tirreno è un po' un percorso particolare, perché da corridori da grandi giri non ci sono delle tappe adatte alle mie caratteristiche, però sicuramente un bel banco di prova in vista della Sanremo per la settimana prossima. Sì, settimana prossima Milano-Sanremo, che hai vinto nel 2006, che per la prima volta si corre di domenica esatto. 16, potrebbe essere l'occasione 17. Buona, domenica 17, bel numero schifoso, non so se sei Scaramantico. Numero fortunato. Beato te, ma il 17 porta una rogna che non hai idea, ma comunque spero che tu non abbia nel frattempo perso, l'ironia non l'hai persa perché abbiamo letto anche in onda i tuoi tweet. Spero che tu non abbia neanche smesso di fare la bella vita. No, beh, diciamo che qui di bella vita ne facciamo poco, perché mi hanno tenuto in ritiro, volevo tornare a casa e non mi ha lasciato andare a casa la squadra, ho dovuto rimanere qui tutti quanti insieme con la squadra in ritiro e allora mi ha toccato di fare il corridore serio, sì, due palle. Se vuoi vengo io a legarti il lenzuolo, c'è problema. No, grazie. Senti Pippo, come inquadri questa stagione? È una stagione importante dopo quello che è successo in inverno, il casino di Armstrong, eccetera, eccetera. Dovrà essere una stagione, insomma, non è l'ennesima stagione della rinascita del ciclismo, ma siamo anche stufi di parlare di queste cose. Dovrà essere una stagione da protagonisti per i big, come te, come Contador, eccetera. Sicuramente, io penso, soprattutto per il ciclismo italiano, penso sia una stagione molto, molto importante, ma sia partita con il piede giusto, perché comunque abbiamo i nomi, quelli forse più rappresentativi, più importanti, che stanno andando bene, a cominciare dal giovane Moser, che è più che una speranza, perché è già un qualcosa di concreto, ha già vinto, ha già dimostrato grandissimi numeri e si è già riconfermato anche rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, già essendo molto giovane, quindi questa è una cosa importante. C'è un corridore come Nibali, che già da domani con la Tirreno si confronterà con Contador, che forse è il rivale più importante che ha e l'ha già battuto più di una volta. Speriamo possa vincere lui in questa Tirrena. Io penso che i due favoriti siano loro due. Cos'hai tu nel mirino? Quella domenica 17, insomma. Beh, è chiaro, quello lì è il primo grande obiettivo dell'anno. È una corsa che tutti sanno, io ci tengo veramente tanto, l'ho vinta nel 2006, l'ho sfiorata nel 2008, Tutti gli anni sono rimasto lì davanti, quarto, quinto, sesto, sono sempre lì a giocarmi perché è sempre stato il mio sogno fin da bambino. Da italiano, certo. È la corsa per le mie caratteristiche è l'unica classica che posso far bene, quindi è sempre una cosa unica e particolare per me. Però è chiaro che non c'è solo la Sanremo, ma poi c'è Fiandre, Parigi-Roubaix, quindi a questa Tirreno dobbiamo cercare di uscire nel miglior modo possibile, perché la prima domenica poi c'è questa Sanremo che la voglio a tutti i costi e farò di tutto per portarla a casa. Lei è ignorante che crede nella scaramanzia, mi dicono. Io ci credo, il 17 non lo sopporto, è sempre stato un giorno sfigatissimo, quindi io ci credo. Senti Pippo, quando hai sentito Armstrong dire quelle cose in televisione, che cosa hai provato? Ma ti dico la verità, io non l'ho sentito, ho letto qualcosa dopo sui giornali, perché non sono uno che legge tanto, sì, nei giornali, né guarda siti internet riguardanti al ciclismo o quant'altro, preferisco guardare altro. Sì, però diciamo che è chiaro che fa male, perché è un duro colpo per tutto quanto il ciclismo, non è un duro colpo solamente per Armstrong o per la sua ex squadra, è per tutti quanto il movimento, è una cosa che va a fare qualcosa di male. La cosa che mi dispiace, che comunque l'ho già detto a qualche collega vostro in conferenza stampa dopo la Eguaglia, che ci siano dei giovani che non hanno mai fatto niente di male e stanno pagando per gli errori che sono stati commessi in passato. Questo penso sia una cosa non giusta, perché comunque sono passati professionisti da pochi anni, fanno tutti i controlli che noi tutti stiamo facendo in questi ultimi anni per dare credibilità al nostro movimento. Non è giusto che lo passino come i nostri ex colleghi che hanno sbagliato, passiamo per quello che non siamo effettivamente, perché io sono tranquillissimo nel dire che il ciclismo di adesso è veramente un ciclismo diverso, un ciclismo credibile. Questa è una cosa che deve veramente far riflettere la gente, perché non ha neanche idea di cosa facciamo noi, non sanno neanche la reperibilità che noi facciamo 365 giorni all'anno per far sì che loro possano farci i controlli quando vogliono, anche quando siamo in vacanza, anche quando siamo con le nostre famiglie, eccetera. Quindi io penso che questo la gente debba saperlo e debba capire veramente cosa noi facciamo per dare credibilità a questo sport. Senti Pippo, speriamo che il 17 il Milan giochi in anticipo o in posticipo, se no te lo perdi. Sì, no, però riusciamo sempre a seguirlo, dai, alla fine se anche il giorno della Sanremo My Sky e via. Esatto, noi non possiamo averci in bici, però dall'ammiraglia possiamo farci dire qualcosa, visto che ci sono le radio, le corse pro tour. Ma quanto conta l'energia di Balotelli, l'energia che ha portato all'arrivo di Balotelli, secondo te? Ma sicuramente diciamo che dà un tocco di fantasia in più al gioco e dà un bel po' di forza in più. Dopo Balotelli chiaramente può piacere e non piacere, però... A me piace un sacco, a te? Sì, no, tecnicamente è un fenomeno, anche a me piace moltissimo. Poi, come dicevo, c'è chi sta simpatico e chi meno, però sì, ha portato veramente un qualcosa in più a questo Milan e speriamo, da milanista, spero che possa valerne la pena per arrivare fino in vetta, anche se è molto molto difficile con una Juve così. Questo era Pippo Pozzato, che con cui vorremmo condividere qualche serata, ma tant'è. Dunque, adesso ci fermiamo per il traffico e poi, amici miei, tocca a voi, tocca alla compilation dei migliori ascoltatori, no, migliori, tutti siete bravi, però di quelli che ci hanno accompagnati in questo periodo, che ci hanno fatto compagnia e che vogliamo riascoltare insieme. Tutti convocati. Sette ascoltatori per... no, più di sette minuti in cui staremo ancora insieme. Però siete sempre tutti convocati ogni giorno dalle 14 alle 15. Io sono qui per voi. 800240024 è il vostro numero verde. E a me piace da morire l'idea di riascoltarvi, di riascoltarci insieme. A partire da questo ascoltatore. Samuele Milano. E se Saltelli sei a Balotelli, e se Saltelli sei a Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Grazie a te, Samuele. Grazie a te. Sai anche l'altro corno? No, l'altro lasciamolo stare. Ascolta, ti chiamavo per dirti una cosa che è successa in Inghilterra, ma se l'è solo un trafiletto. Sì. Io faccio parte di un gruppo organizzato da Curva Sud a Milano. Sì.